Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a Focus Economia. Oggi sarete con me, domani come sempre tornerà Sebastiano Barisoni. La puntata di oggi di Focus Economia in onda, forse sentirete un audio un po' strano, un po' diverso dal solito perché stiamo andando in onda dal Salone del Risparmio di Milano. La puntata di oggi, nella puntata di oggi toccheremo in parte anche il tema che avete sentito nel giornale radio, ossia l'incontro tra il presidente americano Barack Obama e il nostro Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Parleremo naturalmente dei temi economici correlati a questa visita, anche se in conferenza stampa non se ne è parlato molto, ma insomma non c'è dubbio che anche di questo abbiano parlato. A partire da quello che ha detto ieri sera Barack Obama, ieri al termine del vertice tra Europa e Stati Uniti, ha detto: siamo preoccupati per la riduzione della spesa per la difesa di alcuni stati, l'Ucraina ci ricorda che la libertà non è gratis, dobbiamo pagare per avere una forza NATO credibile e deterrente. E chissà se il riferimento era proprio a questo, proprio ai tagli della difesa italiani che si stanno programmando, compresi naturalmente, comprese le ipotesi di taglio per quanto riguarda gli F-35. Torneremo su questo DDL, disegno di legge Delrio per il taglio delle province, e come sappiamo e come abbiamo raccontato in vari momenti è naturalmente un lavoro a metà, quello che lo stesso governo probabilmente interpreta come solamente un segnale, in attesa ovviamente della riforma complessiva che deve essere quella costituzionale, appunto, per l'abolizione delle province. Vedremo però intanto che effetti ha in termini di risparmi e in termini di poltrone, perché le poltrone in realtà crescono, non diminuiscono, anche se forse proprio di poltrone non possiamo parlare perché non ci sarà una crescita di spesa da questo punto di vista, però è importante capire come funzionerà anche a livello di competenze, perché se poi le cose rimanessero ferme, come al solito, ci ritroveremmo con il consueto incrocio di competenze tra vari enti che non si capisce a chi tocca cosa, e i cittadini e soprattutto le imprese che si trovano incastrati in tutto questo. E poi parleremo di Twitter, in realtà parleremo di social media e dei social media, di come possono aiutare, c'è una ricerca che è stata presentata oggi, nell'analisi delle tendenze economiche del paese, cioè di cosa discute la gente sui social media e come questo può aiutare in parte ad orientare le politiche, forse anche ad orientare le scelte di investimento. Ci sono vari esempi internazionali da questo punto di vista, vedremo un po' che cosa emerge da questa ricerca, ci sono dei dettagli interessanti anche per quanto riguarda l'Italia, un'analisi effettuata da un'azienda che si occupa proprio di big data, ossia di grandi quantità di dati cavati dai social network che aiutano in un'interpretazione, per quanto parziale, perché non è che sono tutti sui social network, della realtà. I mercati, giornata piatta complessivamente, almeno per quanto riguarda Milano, un FTSE MIB che guadagna uno 0,11%, un FTSE All Share lo 0,14%, il resto d'Europa è lievemente negativa, Francoforte cede lo 0,12% e Parigi lo 0,27%, se riesco a recuperarvi anche Londra, che in questo momento non riesco a visualizzare, tra poco ve la darò, però più o meno siamo sullo stesso livello. Va un po' peggio l'America, il Nasdaq cede lo 0,7%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,38%, ma naturalmente anche di questo parleremo della giornata sui mercati. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve di oggi. Oh, Naturalmente non vi ho ricordato il numero per intervenire in diretta, ma lo conoscete tutti benissimo, lo vedo già dagli sms che arrivano: 349-238-6666. L'oro, iniziamo come sempre dalle materie prime, a 1297 dollari l'oncia, in calo dello 0,5%. Petrolio in rialzo a 101 dollari al barile, almeno quello quotato a New York, il WTI. C'è il dato di oggi che in parte ha influito naturalmente sull'andamento di borsa, e anche questo affronteremo nella seconda parte della trasmissione quando verremo a parlare della visita di Obama in Italia. C'è il dato sull'economia americana, cresciuta nel quarto trimestre del 2,6%. È più del 2,4% stimato in precedenza, però questa è la terza stima, la prima dava un più 3,2%. Una revisione comunque leggermente inferiore alle attese degli analisti, e di qui il calo di borsa che stiamo vedendo, che scommettevano su una crescita del 2,7. Altro tema americano che verremo a toccare dopo riguarda Citigroup, che è in calo a Wall Street dopo la bocciatura da parte della Fed del piano di distribuzione di capitale agli azionisti, un meno 5%. Visto che si è parlato molto di Ucraina in queste ore, oggi probabilmente non avremo tempo per approfondire questo argomento, ma sicuramente ci sarà modo. C'è innanzitutto il piano di aiuti del Fondo Monetario Internazionale, che sarà compreso fra i 14 e i 18 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il fondo al termine della missione a Kiev. Il totale degli aiuti internazionali raggiungerà i 27 miliardi nei prossimi due anni. Da ricordare che l'Ucraina deve trovare 35 miliardi di dollari nei prossimi due anni per far fronte alle scadenze del suo debito denominato in valuta estera. Il paese più esposto è la Russia, le principali banche del paese hanno crediti verso l'Ucraina per 28 miliardi di dollari. Da segnalare che da quel che vediamo dal comunicato del Fondo Monetario Internazionale, la sensazione è che la cura sia sempre quella: taglia la spesa pubblica, aumento delle tasse, incremento del prezzo del gas, e poi chiedono anche un cambio valutario più flessibile. E poi c'è la Russia. Il governo prevede una crescita del PIL dell'1,8%, 1,9%. Questo lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Alexei Uliukayev. La Banca Mondiale stima un più 1,1% o un meno 1,8% a seconda degli scenari. Beh, insomma, fare le previsioni così sono buono anch'io. No, però chiaramente identificano uno scenario peggiore e uno scenario migliore. Detto ciò, la Russia ha un grosso problema di fuga di capitali, del quale spesso abbiamo parlato. Ebbene, se raggiungesse quest'anno i 100 miliardi di dollari, la crescita sarebbe limitata a un più 0,6%. Queste sono sempre parole del ministro dello sviluppo economico. Nel primo trimestre, solo nel primo trimestre, hanno lasciato la Russia 60 miliardi di dollari, più di tutta la somma del 2013. E quindi forse 100 miliardi di dollari per tutto l'anno è un filino ottimistico. Da segnalare anche che c'è una risposta alle sanzioni da parte della Russia. Nei giorni scorsi è successo che Visa e Mastercard avevano bloccato i pagamenti dei cittadini russi, soprattutto quelli che passavano nello specifico da due o tre banche russe. Ebbene, Vladimir Putin dice: creeremo un nostro sistema di pagamento elettronico sul modello di Giappone e Cina. Ci sono poi i dati sull'Italia, e sono buoni almeno per quanto riguarda la fiducia delle imprese, che segna il quinto rialzo consecutivo, indice 89 1,5 al top da settembre 2011, da 2 anni e mezzo. C'è il Tesoro che ha collocato tutti i 7 miliardi e mezzo di euro di botta a 6 mesi, la prima tranche, con tassi però in rialzo allo 0,504% dal minimo storico dello 0,455 toccato nell'asta di febbraio. E sempre dall'Italia ci sono le parole del ministro Guidi, il ministro Federica Guidi dello sviluppo economico. In Italia, dice, finora è mancata una politica industriale, quindi nelle prossime settimane verrà avviata la costruzione di una task force per creare una sorta di industrial compact. Sentiamola. Io ho citato l'Industrial Compact perché prima di tutto condivido, diciamo, questa impostazione che l'Europa sta dando, credo molto nel contributo che l'Italia può dare e credo anche che in Italia sia mancata, forse fino ad oggi, una politica industriale. Quindi una delle prime cose che io voglio cercare di impostare nelle prossime settimane è la costruzione di un gruppo di lavoro, una task force, chiamiamola come vogliamo, composta da alcune persone, economisti, politologi, insomma, comunque persone che riescono a creare sostanzialmente un industrial compact italiano e quindi lavorare sulla falsa riga dell'industrial compact europeo per arrivare a dare delle priorità e quindi stabilire delle linee di priorità su un industrial compact italiano. Poi, come dare torto al ministro Federica Guidi, in Italia c'è bisogno di una grande opera di sburocratizzazione. Parla anche di Confindustria, lei che ci è stata dentro, è stata presidente dei giovani. I rapporti del governo sono di rispetto reciproco, abbiamo ruoli diversi in ambiti diversi e i rapporti rispettano questi ruoli e sono di collaborazione. E poi la crisi nel giorno nel quale tra l'altro viene diffuso anche il dato sulla fiducia dei consumatori, prima vi abbiamo dato quello sulla fiducia delle imprese, la fiducia dei consumatori che è al top, ai massimi da giugno 2011. L'Istat misura anche il clima economico, il miglioramento del clima economico, l'indice è salito di 10,7 punti a 107,6 da 96,9. E però, dice Guidi, il recupero è in corso ma lento e incerto. Noi veniamo da un periodo di recessione che non oso a definire quasi post bellico, io credo, nei numeri che abbiamo in qualche modo consuntivato. La contrazione del PIL di quasi 10 punti percentuali, certamente, e alcuni dati recenti che l'Istat sta fornendo lo dimostrano, c'è credo un segno di inversione di tendenza positivo, soprattutto probabilmente anche legato a un clima di fiducia che sta riprendendo, e questo naturalmente è positivo, però come dire, il consolidare tutto questo è responsabilità naturalmente nostra e comunque, come dire, rimangono dei margini di incertezza che dobbiamo cercare di risolvere. Credo si possa, per usare così una metafora, dire che sicuramente il treno della ripresa è in arrivo, ma in qualche modo, come dire, bisogna che tutti noi cerchiamo di far sì che si fermi alla nostra stazione e che quindi questa stazione non venga saltata. Sulla commissione per l'Industrial Compact ci scrivete al 349-238-6666, altri saggi in arrivo! speriamo di no. Meglio, speriamo che ci sia molta concretezza, quantomeno. Avete sentito il ministro Guidi parlare di treno della ripresa? Beh, parliamo invece di treni veri e propri, di treni non metaforici. Perché l'Europa ha aperto un'indagine sugli interventi pubblici nel settore cargo a favore di Trenitalia e di altre società del gruppo Ferrovie dello Stato. Alcune compensazioni per obbligo di servizio pubblico e trasferimento a titolo gratuito di asset nell'ambito del mercato italiano del trasporto ferroviario. Poi torna a parlare oggi Mauro Moretti, amministratore delegato di Ferrovie. Dice: io non ho mai proposto la quotazione di Ferrovie in borsa, non so perché Lupi abbia riportato a me il desiderio della quotazione. Io sto facendo quello che il Ministero dell'Economia mi sta chiedendo, cioè di mettere in chiarezza i conti per poter decidere che fare. E ancora sul trasporto locale, sul quale Moretti è stato anche sotto attacco in questi giorni, dice: Efes ha bisogno della certezza dei pagamenti, perché, lo ricordiamo, il trasporto locale in realtà è in capo alle regioni, che poi affidano il servizio, in questo caso alle Ferrovie dello Stato. Non possiamo continuare a fare servizi se ci sono dei clienti collettivi che pensano di pagarci in due anni e mezzo. Potremmo anche lasciarli ad altri. Questo anche gli imprenditori che sono in ascolto e che lavorano col pubblico lo sanno bene. E certo, Moretti, da questo punto di vista, le ferrovie partono da una posizione di maggiore forza. Veniamo al primo tema di oggi, le province. Ritorniamo su questo DDL Delrio, che sembra oggettivamente, qua senza voler fare i costituzionalisti o gli esperti di enti locali, sembra un lavoro fatto a metà, insomma sembra qualcosa di fatto in attesa che ci sia una riforma costituzionale più complessiva che metta mano al governo locale in genere. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Gianni Trovati è in studio, nei nostri studi di Milano. Noi siamo qua, lo ricordiamo, al Salone del Risparmio e quindi ci parliamo a distanza. Allora Gianni, oggi c'è ampio spazio sul Sole 24 Ore dedicato da te a questa vicenda con un tuo articolo. In sostanza io partirei da questo, partirei da questa questione delle poltrone. Abbiamo già parlato oggi in effetto giorno, no? Cioè in realtà con questo DDL Delrio una moltiplicazione delle poltrone, che però tu definisci seggioline, per così dire, perché in realtà non sono pagate. Sì, allora il saldo è il seguente: si cancellano circa 2000 quest'anno e poi altre circa 700 l'anno prossimo posti in consiglio provinciale, in giunta provinciale, eccetera eccetera, perché le giunte e i consigli vanno a chiudere sostanzialmente in costanza di mandato e non vengono rinnovate, ma in cambio, diciamo così, si allargano e di molto le dimensioni previste per i consigli e le giunte dei piccoli comuni, cioè dei comuni fino a 10.000 abitanti. L'effetto è in questi comuni che non si applicheranno i tagli che erano stati previsti dalla manovra del 2011, che aveva molto molto ridotto i posti nei piccoli comuni. Li riduceva man mano che i comuni in concomitanza con le elezioni, cioè i mandati attuali sì. si fermavano solo alla scadenza naturale, e con il rinnovo degli organi ci sarebbero stati organi alleggeriti e ridotti. Questo non succede perché la nuova riforma interviene prima che la maggioranza dei comuni fossero arrivati a scadenza, perché nelle elezioni di maggio saranno quasi 4.000 i piccoli comuni delle regioni ordinarie al voto, quindi insomma più della metà. Dal punto di vista degli effetti economici questo però è molto minore, perché da un lato le indennità e i gettoni di presenza nei piccoli comuni sono molto molto ridotte e non hanno un grosso impatto, diciamo così, in termini di finanza pubblica, e poi perché c'è una clausola di invarianza, nel senso che queste nuove regole non devono aumentare i costi delle indennità, dei costi della politica, chiamiamoli così, sì. In ogni comune, perché devono sostanzialmente redistribuirsi fra i nuovi i soldi che venivano dati ai vecchi. Ma il problema non è questo qui, perché il problema dei piccoli comuni è un problema di organizzazione, di costi dell'organizzazione, e soprattutto dipendente dalla dimensione. Allora io adesso ci prendiamo un attimo una pausa. Io dopo con te vorrei parlare dei risparmi effettivi che arrivano da questo DDL, e poi vorrei parlare di queste città metropolitane, perché qualche preoccupazione gira sul fatto che di fatto queste vadano a diventare sostanzialmente le nuove province, perché inizialmente c'era un'ipotesi, se non erro, di 21, in realtà saranno 10 in questa prima tornata. Insomma, ci sono anche dentro province che hanno mezzo milione di abitanti. Sentire la parola metropolitana ci fa un po' ridere, insomma, però vorrei parlarne con te e capire anche che cosa ne pensi dopo la pausa. Focus Economia. Buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms. Stiamo parlando del disegno di legge Delrio per non la cancellazione delle province, ma lo svuotamento di competenze delle province, perché questo è quello che in effetti avviene. Allora, Gianni Trovati, i risparmi effettivi quali sono? Risparmi effettivi sono pochini e piuttosto incerti per ora, perché questo, come dicevi tu, è nelle intenzioni solo il primo passo della riforma, poi degli ordinamenti. Allora, per il momento ci sono, diciamo, da scrivere nella colonna delle entrate, 111 milioni di euro, euro più, euro meno, delle indennità che vanno a cadere, forse qualcosina di più, perché si prevede anche che i commissari continuino il loro lavoro, però a titolo gratuito. Ora poi bisogna vedere chi accetta e come. E poi ci sono circa 300 milioni di euro. E poi Gianni, bisognerà vedere anche la qualità dei commissari che riesci ad avere. Sì, anche perché non è facilissimo, perché insomma ci sono delle responsabilità, ci sono dei lavori da effettuare, da gestire, un passaggio di competenze alle regioni o ai comuni del territorio a seconda delle scelte dei singoli territori, che non è proprio semplicissimo e gratis non è facile. E poi ci sono le mancate elezioni provinciali, le altre erano costate 380 circa milioni, una quota a carico delle province, una quota a carico dello Stato. Queste qui sarebbero costate un pelino meno, perché sono contemporanee alle europee. Perché non sono certi questi risparmi? Perché non c'è una clausola che taglia i fondi in maniera equivalente, cioè la provincia che sopravvive non spende più i suoi milioni di euro in indennità, ma non le vengono tagliati i fondi, e quindi questi fondi che non vengono spesi in indennità possono essere spesi per qualcos'altro, e il risparmio a quel punto sarebbe zero. Ok, a chiudere, innanzitutto una risposta all'ascoltatore che ci scrive: siete solo dei disfattisti. No, guardi, allora qua non stiamo valutando il segnale politico che si dà con questa decisione, con l'approvazione del DDL Delrio, lo stiamo valutando tecnicamente, non è disfattismo, stiamo ragionando su che cosa prevede questo decreto e l'efficacia che ha, e poi tutto il resto si misurerà, ancora una volta lo diciamo, su la modifica della Costituzione quando arriverà, che cambierà il governo locale, perché a quel punto le province dovranno essere abolite, ma per davvero, non svuotate di competenze. L'ultima cosa sulla quale ti voglio portare, Gianni, è appunto la questione delle città metropolitane, perché circola qualche timore che diventino in sostanza il nuovo carrozzone, perché vanno in parte ad assorbire la provincia. Sì, le città metropolitane appunto sono 10, poi però ci sono anche le regioni a statuto autonomo, a statuto speciale, che avranno la possibilità di creare forme diciamo analoghe, non regolate da legge statale perché sono autonome, appunto sostituiscono in tutto e per tutto la provincia nel territorio della provincia attuale in cui è la città metropolitana, e sostanzialmente sono attese da molti anni, perché ci sono all'estero, le città metropolitane hanno esigenze particolari, pensiamo solo nelle reti, nel trasporto eccetera eccetera, lì l'incognita è ancora una volta soprattutto sulle funzioni e sulla gestione delle funzioni. Sì. Anche qui siamo in una fase transitoria, i punti interrogativi non mancano, i dubbi non mancano, bisognerà vigilare molto sull'attuazione, perché il rischio che tu dicevi prima, cioè di una sostituzione tout court sulle province, delle attuali province, in effetti c'è. Diciamo che adesso nelle città metropolitane il comune metropolitano, pensiamo a Milano nella sua provincia o a Roma nella sua provincia, aveva una forte preminenza, ma poi c'era una duplicazione, no? Con la provincia che si trovava a gestire un territorio che per l'80% dell'importanza economica della popolazione e così via era il comune metropolitano. Questa sovrapposizione viene a mancare, ma poi tutto dipende da come è effettivamente l'attuazione di queste regole e soprattutto la distribuzione delle funzioni e poi la lotta politica, perché parliamoci chiaro, a Milano per esempio la provincia è di centrodestra, il comune è di centrosinistra, con la città metropolitana la città metropolitana diventa di centrosinistra e ovviamente il centrodestra non è felice. Ovviamente. Agli ascoltatori che ci scrivono, e questo bisogna dar ragione, insomma, no? Dicono: guardate, il problema alla fine non sono gli spiccioli dei consiglieri provinciali, ma sono in realtà, per esempio, tutta quella giungla di partecipate che in parte fa riferimento anche alle province. Sì, vero, verissimo. Sì, diciamo anche, scusami. Una cosa rapidissima, Gianni, sempre per rispondere, il DDL Delrio deve tornare alla Camera per l'approvazione finale, però non dovrebbe essere più cambiato e dovrebbe essere in fretta, e viene incardinato oggi appunto per far entrare in vigore le nuove regole, per esempio quelle sui piccoli comuni, già dalle prossime elezioni di maggio. Benissimo, a proposito dei piccoli comuni e dei problemi che si troverà ad affrontare il sindaco metropolitano, oggi effetto giorno abbiamo intervistato il presidente dell'ANCI Piero Fassino, che ha anche espresso qualche critica appunto su questo DDL, ascoltiamolo. Il vero problema che non si è aggredito, non si è affrontato, e io penso che adesso andrà affrontato, è che noi abbiamo 8.000 comuni in Italia, 5.000 dei quali con meno di 5.000 abitanti, 3.000 dei quali con meno di 3.000 abitanti, cioè abbiamo una grande polverizzazione della dimensione comunale che spesso ci offre comuni di dimensioni così ridotte da non essere in grado di avere né strutture né risorse per erogare adeguatamente i servizi che i cittadini si aspettano. Il passo allora vero da fare a questo punto, anche utilizzando lo scenario nuovo prodotto dal superamento della provincia e della riorganizzazione della provincia come organo di secondo livello e dell'istituzione della città metropolitana, è quello di andare verso una semplificazione del numero dei comuni, che può avvenire sia, come sta avvenendo in molte regioni, attraverso fusioni tra comuni, sia attraverso un istituto che nella legge c'è già, l'unione di comuni che... Sì. Senza sparire, mettono insieme però servizi, politiche e agiscono in comune. Così dunque Piero Fassino, ancora anche Federico ci scrive, così come l'altro ascoltatore, se i problemi sono sempre altri da dove si comincia. Qua non si sta veramente, Federico, facendo benaltrismo, ecco, come per usare un'espressione che è entrata in voga. Si sta semplicemente ragionando su queste norme e su come cambieranno le cose nei prossimi mesi e come poi dovranno cambiare, ricordando, ripeto ancora una volta, che se non si fa una modifica costituzionale, questo DDL è qualcosa di provvisorio, ok? È semplicemente questo il punto. La borsa. Livia Zancaner, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera. Allora, la giornata a Milano si chiude in positivo, FTSE MIB più 0,31%, FTSE All Share più 0,32%, non così bene il resto d'Europa, come mai? Allora, diciamo che è stata una giornata piuttosto sottotono per le borse europee dopo il rally dei giorni scorsi. Ricordiamo che Milano in sole due sedute ha guadagnato oltre il 2%, anche Milano non è andata benissimo per tutta la giornata, mentre allungato poi sul finale ed è riuscita a chiudere a più 0,3%. Possiamo dire che gli investitori prendono profitto appunto dopo i guadagni dei giorni scorsi, mentre ovviamente persistono sempre i timori sui rischi di nuove sanzioni nei confronti della Russia per il conflitto in Ucraina. Diamo anche un'occhiata a New York, dove il Dow Jones ora segna meno 0,07% dopo il calo segnato alla vigilia, quindi vediamo anche che i mercati americani risentono comunque di questa debolezza generale. Iniziamo a dare un'occhiata ai singoli titoli. Innanzitutto, il titolo migliore sul listino oggi è Mediolanum, un più 3,25%. Sì, allora Mediolanum ieri ha dato i conti del 2013, l'utile senza considerare però gli oneri non ricorrenti è salito del 9%, raggiungendo il nuovo livello record a oltre 544 milioni, considerando gli oneri invece è sceso del 4% a 337 milioni circa, anche le masse gestite sono salite del 12% e il CDA, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di proporre all'Assemblea un dividendo in rialzo a 0,25 euro rispetto ai 0,18 euro distribuiti l'anno precedente. Questo per quanto riguarda Mediolanum, bene anche UbiBanca più 1,96%, Azimut più 1,40%, visto che stiamo trasmettendo qua dal Salone del Risparmio, anche qua è andata bene la raccolta per Azimut, no? Per Azimut sì, va bene la raccolta, ricordiamo che a gennaio la raccolta si è attestata oltre 700 milioni, il migliore risultato mensile di sempre, proprio ieri il presidente amministratore delegato Pietro Giuliani, proprio lì dove vi trovate voi al Salone del Risparmio, ha detto che la raccolta di marzo sarà di qualche centinaio di milioni di euro ancora, ma non raggiungerà i record raggiunti a gennaio, ma comunque quindi il mercato si aspetta risultati positivi. Allora, ci sono altri titoli di cui voglio parlare con te, anche RCS tra le altre cose, Eni ed Enel, perché oggi la banca centrale cinese si è saputo che è sopra il 2% delle due aziende, lo si è preso gli aggiornamenti Consob sulle partecipazioni rilevanti, ma lo facciamo dopo il traffico. Focus Economia. Siamo ancora sui mercati con Livia Zancaner di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Allora, prima di andare a Eni ed Enel, Monte dei Paschi. Sì, allora, il Monte dei Paschi, come il settore bancario, ha chiuso oggi in territorio positivo, ha guadagnato l'1,13%, è notizia di ieri che la fondazione ha venduto un altro 3% del capitale scendendo al 12%, anche se potrebbe finire l'appeal speculativo legato appunto alla vendita delle azioni da parte della fondazione, il mercato apprezza comunque la contendibilità che avrà il gruppo, poiché dopo l'aumento di capitale che potrebbe partire a fine maggio, l'azionariato risulterà decisamente più frazionato. Ricordiamo anche che vi è un'indagine in corso a parte della Consob e della Guardia di Finanza sui movimenti del titolo che risalgono al 5 e al 18 marzo, cioè quando le azioni erano cresciute molto sulle voci proprio di vendita da parte della fondazione. Enel più 0,20%, Eni meno 0,28%, questa notizia appunto che la banca centrale cinese è salita sopra il 2% delle due aziende non le ha mosse più di tanto, mi sembra. Sì, diciamo di no, anzi hanno mostrato un andamento piuttosto coerente con il resto del listino e anche con i listini europei e quindi sì, diciamo che non hanno risentito particolarmente della notizia di oggi. Il settore del lusso, meno 2,82% Yux, Moncler meno 1,42%, Ferragamo meno 0,93% oggi. Qua cos'è Livia? Prosegue il ritracciamento dopo gli ottimi risultati dell'anno scorso? Insomma, Yux, lo ricordiamo, è stato il titolo migliore nel 2013. Sì, diciamo di sì. Ricordiamo che Yux allora, negli ultimi due giorni è cresciuta del 5%, mentre prima aveva perso oltre il 20% dai primi di marzo. Vediamo che si tratta di un ritracciamento dei titoli di tutto il settore che nei giorni scorsi era andato molto bene. Yux ha perso il 2,8%, Tozzo l'1,8% e Salvatore Ferragamo lo 0,93%. Alcuni analisti sostengono che le aspettative del consenso sul settore dell'uso sono ancora molto elevate, non supportate dai dati macroeconomici deboli, viste anche le incertezze sulla Cina, e quindi questo potrebbe mettere ulteriore pressione sulla valutazione del comparto. Questo appunto per quanto riguarda il lusso. Ecco, infine RCS, sempre dalle partecipazioni rilevanti di Consob, abbiamo appreso che Invesco, un fondo americano che risultava già azionista con un dichiarato 2,09%, detiene adesso il 5,065%. Ha mosso il titolo questo? Allora, il titolo questa mattina viaggiava in territorio positivo, ha chiuso invece con un ribasso dello 0,58%, mentre sono andate bene le risparmio che hanno guadagnato oltre il 4%. Ricordiamo che venerdì si riunirà il CDA per appunto convocare l'assemblea e che vanno avanti le indiscrezioni e le speculazioni sulla società. Ricordiamo che ieri Urbano Cairo non ha escluso di un incremento della partecipazione nel gruppo e non ha scartato nemmeno l'ipotesi di un ingresso nel consiglio di amministrazione. Grazie a Livia Zancaner di Radio Coro Il Sole 24 Ore, come sempre ai colleghi di Radio Coro Il Sole 24 Ore per questi aggiornamenti e buona serata. E mi scrivete ancora sulle province. Daniele da Treviso, bella storia, perché questo poi è un tema molto italiano, la questione dell'accorpamento dei comuni. In provincia di Treviso ci sono stati due referendum, mi scrive, voluti dai sindaci per accorpare dei comuni, risultato, hanno vinto i no. Che vuoi fare? Poi ci sta anche che i sindaci non gliel'abbiano fatto capire quanto sarebbe importante anche in termini di risparmi, in termini di servizi, di quanto molto semplicemente come sindaco, come unione di comuni riesci a contrattare con le aziende alle quali affidi servizi e quindi a spuntare prezzi migliori, ad avere un servizio migliore, però... Il Salone del Risparmio... Seconda giornata organizzato da Sogestioni, giunto alla sua quinta edizione, stiamo trasmettendo da qua, si conclude domani, 153 i marchi del risparmio gestito presenti e 100 gli incontri e conferenze previste nella tre giorni. Però vogliamo parlare qua di un argomento particolare, inizieremo adesso e poi proseguiremo nella seconda parte della trasmissione, dove poi andremo a toccare anche il tema della visita di Obama in Italia, di quello che si sono detti con Renzi, Italia, la difesa e via dicendo. Come leggono la crisi i social network? Saluto Valeria Sandei, amministratore delegato di AlmaWave, società italiana leader nel settore dei big data, ossia queste grandi masse di dati che si possono raccogliere in vari modi, tra cui anche attraverso i social network. Buonasera e benvenuta. Buonasera. Allora, avete fatto un'analisi che ha preso in considerazione 76 milioni di tweet in 6 differenti lingue da inizio 2014. Io vorrei sentire che cosa emerge dall'Italia innanzitutto, in un minuto, e poi dopo ne parliamo più approfonditamente. Sì, questa raccolta è stata focalizzata proprio sui temi dell'economia e del risparmio, quindi abbiamo raccolto circa 2400 concetti che riguardano questo mondo. Chiaramente in Italia, dove abbiamo raccolto oltre 10 milioni di tweet su questo totale che avete detto di 76, il tema che è emerso più forte è quello della crisi economica, della crisi politica. Dietro a questo tema ne sono emersi n altri legati al mondo del lavoro, alla propensione nei consumi, e quindi si è creata una sorta di rete di concetti molto ricca attorno a questo. Questo per quanto riguarda l'Italia, per dare un'idea, perché dato che se no sembra, dice, beh, per forza, è emerso che gli italiani sono preoccupati della crisi. In realtà è interessante come poi tutto questo si separi tra paese e paese, no? Noi parliamo molto, per esempio, della crisi politica, per gli spagnoli è la crisi dei consumi, per la lingua portoghese è la crescita economica del Brasile, naturalmente. Allora, noi adesso ci fermiamo e poi entriamo nel dettaglio, perché io quello che voglio capire da tutto questo è come queste cose si possono utilizzare, per esempio per orientare le scelte di investimento, oppure per fare delle scelte di policy. I politici possono usare questo per capire cosa pensano i cittadini? A tra poco. Focus Economia. Buonasera da Simone Spezia, in diretta al Salone del Risparmio a Milano. 349-238-6666 per i vostri sms. State continuando a scrivere in molti sul tema delle province, e vorrei rispondere in particolare a Loris, che ci scrive dalla provincia di Pordenone, e a Filippo Fiori invece, che mi scrive su Twitter, perché forse avete ragione, può darsi che per come l'abbiamo messa non si sia capita molto bene. Quando parliamo di comuni che si devono mettere insieme, facciamo riferimento prevalentemente all'unione di comuni e non alla fusione tra i comuni, che capiamo che può creare qualche problema dal punto di vista dell'identità territoriale. Parliamo appunto dell'unione tra comuni, appunto comuni che si mettono insieme, che fanno una sorta di rete, come se fosse un distretto industriale però nella pubblica amministrazione. In quel modo riescono a spuntare probabilmente cose migliori. C'è anche chi si dice scettico a prescindere, poi dite a noi che siamo i benaltristi. Ci scrive un ascoltatore, dice: sarebbe bellissimo se si accorpassero e i sindaci lavorassero per avere spuntare prezzi migliori dalle aziende che forniscono servizi. Il problema è che spuntare prezzi migliori alla maggior parte di loro non interessa assolutamente nulla. C'è un fondo di verità, c'è un fondo di verità. Però ci sono anche ottimi amministratori locali in questo paese, insomma non buttiamoci giù in questo modo. E riprendiamo da Valeria Sandei, amministratore delegato di Alma Wave, è una società italiana leader nel settore dei big data, ossia grosse quantità di dati, grande analisi di dati. Tra l'altro nella pausa e durante il giornale radio, ci perdoneranno i colleghi del GR se non abbiamo ascoltato proprio tutto e approfonditamente, stavamo facendo una chiacchierata e mi raccontava Sandei che questa è un'azienda tutta italiana che fa una cosa tecnologicamente molto avanzata. E tra l'altro, in quali paesi siete in questo momento? Siamo partiti in Italia, dove è il nostro cuore, con 137 dipendenti adesso. Siamo in Brasile da 3 anni, dove stiamo crescendo molto. Siamo partiti in Sudafrica, Johannesburg, e stiamo aprendo anche negli Stati Uniti. Palo Alto, nella mitica Palo Alto. Esatto. Nel cuore della tecnologia mondiale, sostanzialmente. E tra l'altro con un team, naturalmente, immagino, per il lavoro che fate, che è appunto l'analisi dei dati, e quindi gente che deve saperci fare tanto con i computer quanto con la matematica, perché deve studiare degli algoritmi che analizzino questi dati, immagino, insomma, personale di un certo livello. Per assolutamente, abbiamo 60 persone di laboratorio, tutti matematici, fisici, ricercatori universitari con una grande preparazione. Voglio dire, in Italia queste professionalità ci sono e quindi cerchiamo di sfruttarle al meglio per quello che riusciamo. Buon segnale quindi. Allora, stavamo dicendo di cosa parlano su Twitter in merito all'economia, al risparmio, di cosa si parla in varie lingue. Vedo che per esempio i tedeschi si occupano molto di crowdfunding, ossia di evidentemente hanno pochi problemi con la crisi e quindi si occupano di come raccogliere denaro su internet per nuove imprese, non solo su internet. In Francia la difficoltà di liquidità per le imprese, la difficoltà finanziaria per le famiglie. In Italia la crisi politica collegata alla crisi economica. Io però a questo punto voglio sapere da lei come si possono usare questi dati, a cosa servono? Dunque, questi dati rappresentano una nuova frontiera dell'analisi e della conoscenza, nel senso che il fenomeno dei social network è un fenomeno che è cresciuto tantissimo in questi anni e a mio giudizio la prima cosa è proprio comprendere queste informazioni e ascoltarle. Quando parliamo di 76 milioni di opinioni espresse liberamente da N persone su argomenti così anche vari come sono l'economia, la finanza, il lavoro e i consumi, io credo che il primo punto sia proprio comprendere questi punti di vista, coglierli e riuscire a metterli a fattor comune con tutte le altre informazioni che sono già a disposizione di aziende, di amministrazioni, per capire come evolvere al meglio. Tenete conto che analisi di questo tipo possono essere indirizzate su una varietà di argomenti assoluta. Qui ne vediamo una che è quella focalizzata sull'economia. Poche settimane fa ne abbiamo prospettata una sul mondo del turismo, quindi sulle nostre città, sui nostri musei, sulle nostre località d'arte, sull'enogastronomia. L'uso può essere molto vario, può essere quello anche per comprendere da dove arrivano nuovi flussi di interesse verso il nostro paese, nuovi punti di vista rispetto ai quali poi attuare una serie di iniziative concrete. Quindi capire per poi dopo, a mio giudizio, decidere e attuare nuovi modelli anche di comunicazione, di relazione con cittadini, utenti, clienti rispetto al soggetto. Ricordatevi sempre che anche con questi sistemi l'uomo che in questo momento presumibilmente sta visitando il Colosseo, anche se non ho esatta contezza dei suoi movimenti, ci ha anche vinto le sue ultime elezioni presidenziali e quindi è roba che evidentemente serve. Grazie a Valeria Sandè, amministratore delegato di Alma Wave. Grazie a voi. Società italiana del settore di Big Data e naturalmente in bocca al lupo soprattutto per Palo Alto. Crepi, assolutamente. Buona giornata, noi andiamo appunto a parlare di Barack Obama e della sua visita in Italia. Iniziamo ascoltando che cosa hanno detto nel corso della conferenza stampa. Ci sono state molte dichiarazioni di rito, come sempre accade in questi casi. Si è parlato anche di riforme, come naturale, e si è parlato di economia. Con un dato americano oggi che indica un'economia in crescita del 2,6%, Obama ha parlato della crescita europea. Sentiamolo. Ciò che è anche vero è che la crescita europea è ancora rallentatore e il tasso di occupazione è ancora di disoccupazione molto elevato. Lo sa benissimo il primo ministro Renzi, parte della sua missione è quella di dare nuovo vigore all'economia italiana. Ogni paese ha una serie di problemi che dovrà affrontare singolarmente, perché ogni paese ha delle forze e delle debolezze. Come diceva del primo ministro Renzi ha identificato alcune riforme strutturali affinché l'Italia sia più concorrenziale e riscontri successo. Io non dubito che potrà portare l'Italia avanti, in parte perché l'Italia è pronta ad andare avanti. Saluto intanto Mario Platero, normalmente corrispondente del Sole 24 Ore da New York e che in realtà adesso è, come lui stesso ama dire, al seguito del presidente americano. Ci sei, Mario? Eccomi, caro Simone. Allora, guarda, facciamo una cosa, adesso parliamo con te, voglio sentire un'altra voce di Barack Obama, poi sentiamo cosa succede sulle strade, sentiamo il traffico e poi ci racconti un po' che impressioni hai ricavato e stai ricavando da questa giornata. Sentiamo Obama. Per quanto riguarda l'Europa intera, devo dirvi che il vecchio dibattito della crescita rispetto all'austerità è un dibattito sterile. Bisogna mettere in ordine le finanze pubbliche, però bisogna anche crescere. Più cresciamo e più facile è mettere in ordine le nostre finanze pubbliche. Quindi ci sono capacità diverse in seno all'Europa, l'ho detto prima e devo ribadirlo, i paesi che hanno dei surplus, hanno più spazio per spingere la domanda europea e questo a sua volta aiuterà i paesi che riscontrano ancora un deficit. Beh, il messaggio non è nemmeno troppo velato alla Germania. Sentiamo cosa succede sulle strade e poi ne parliamo con Mario Platero. Strade in diretta. Buonasera, sull'autosole 2 km di coda tra Monte San Savino e Val di Chiana in direzione Roma per un incidente tra due veicoli di cui uno intraversato. Ancora sulla 1 altre code per lavori tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze e tra Modena e Reggio Emilia in entrambe le direzioni. Abbiamo 5 km verso Milano e 2 km in direzione Bologna. In Sicilia resta chiusa la 19 Palermo-Catania per un incidente che coinvolge mezzi pesanti tra Scillato e Tremonzelli verso Palermo. Traffico rilento sulla 14 Adriatica verso Pescara per un incidente tra Fermo, Porto, San Giorgio e Pedaso e poi proseguendo verso sud rallentamenti anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori. Un incidente anche sul raccordo anulare di Roma, code tra la via Casilina e la via Anagnina in carreggiata interna. 2 km di coda sulla 22 del Brennero per lavori tra chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione Modena. Per ora è tutto, appuntamento tra mezz'ora. Focus Economia. Tra un attimo verremo anche a sentire le parole di Matteo Renzi, intanto mi voglio soffermare su quelle di Obama perché è tornato su un tema che aveva creato Mario Platero anche qualche frizione tra gli Stati Uniti e la Germania, no? Il tema è sì. voi tedeschi che avete i soldi spendete di più così incrementate la domanda di tutta l'area euro e aiutate tutta l'Europa a crescere, questa stringendo e dicendola molto brutalmente. Sì, Obama ha invitato la Germania, di fatto, come tu hai detto, l'appello non è stato neanche tanto velato, a darsi da fare. E qui devo dire che è il punto chiave su cui l'Italia di Matteo Renzi può trovare una sponda su cui giocare le sue carte nei confronti degli Stati Uniti, cioè procedere con delle politiche aggressive di crescita a tutto campo. Il messaggio di Obama è molto chiaro, l'austerità serve solo fino a un certo punto perché l'austerità impedisce, soffoca la crescita dell'economia e dunque lui ha portato il suo modello, il modello Obama come esempio perché? Beh, perché sono state straordinarie manovre di stimolo, c'è stato un disavanzo pubblico che è andato, noi ci preoccupiamo del 3%, no? Un disavanzo pubblico sul PIL. Bene, in America ha toccato il 10%, nel momento in cui le cose erano difficili ha toccato il 10% e i critici dicevano questo è un disavanzo esplosivo, l'America finirà sottoterra, sarà travolta dall'inflazione, da questa bolla monetaria, insomma grandi pasticci per cercare di tenere in piedi un'economia che non resta, perché non è in grado di tenersi su da sola. Non è successo, l'economia americana è cresciuta. c'è stato uno straordinario calo del disavanzo pubblico sul PIL dal 10 all'8 e adesso addirittura al 4%, pensa che addirittura un mese si è chiuso in surplus. E dunque il modello di cui parla Obama non è un modello teorico, ipotetico, campato per aria, è un modello molto concreto che ha portato 7 milioni di nuovi posti di lavoro. Ecco, il nostro Presidente del Consiglio è allineato su questo modello, però lui fino a un certo punto, i tedeschi non tanto, Mario, i tedeschi non tanto, il punto è questo, insomma. I tedeschi non tanto, ma l'America cerca delle sponde, cerca qualcuno che porti avanti questo disegno. Allora, il nostro Presidente del Consiglio è schierato da quella parte, però non ha fatto tutto quello che ha fatto Obama. Obama ha puntato molto sulle aziende, ha puntato molto sul rilancio del settore auto, per esempio, ha addirittura investito dei capitali dello Stato nella Chrysler, nella General Motors, ha concesso incentivi fiscali, incentivi all'investimento a una gran quantità di aziende, ha stanziato un pacchetto di stimoli per l'economia di 800 miliardi di dollari. Ecco, tutto questo ha portato al deficit e ha funzionato. Da noi non è possibile, ecco, però Renzi potrebbe dedicare molta attenzione, molta energia a certe misure che possono, per esempio, ridurre il costo del lavoro per le aziende, il famoso cuneo fiscale che ancora resta elevatissimo, togliere quello che in americano si dice red tape, dunque molta burocrazia, e cominciare a dare respiro a queste aziende, perché se si vuole la crescita, se si vuole il rilancio dell'occupazione, beh, sappiamo che questo passa soltanto attraverso aziende piccole, medie, piccolissime, grandi, che a un certo punto hanno fiducia nel futuro e decidono di investire e assumere. Sì, tra l'altro quello che ci dicevi viene confermato anche dai dati che sono stati diffusi oggi dagli Stati Uniti. L'economia americana è cresciuta nel quarto trimestre del 2,6%, d'accordo, è lievemente inferiore alle attese degli analisti che si attendevano un più 2,7%, però sempre di un più 2,6% stiamo parlando. Prima ancora di sentire Renzi, vorrei sentirti brevemente, Mario, e poi ti saluto su questa speranza espressa al Presidente del Consiglio di arrivare al famoso accordo commerciale, accordo per l'area di libero scambio tra Europa e Stati Uniti nel nostro semestre di presidenza europea. Dal tuo osservatorio ti sembra qualcosa di possibile, di probabile? Ma guarda, l'auspicio è che ci si riesca e l'America vuole riuscirci. C'è un personaggio che si chiama Michael Froman che è il punto di riferimento per questo negoziato, che è bravissimo, conosce l'Europa, è un grande esperto, un grande politico, è molto vicino al Presidente, ha lavorato con Obama come sherpa del G7 e del G20, dunque ha influenza la Casa Bianca. Ecco, i tempi tecnici purtroppo sono quelli che sono, e lo stesso Renzi ha detto, se non ci riusciremo forse slitterà nel 2015, i tempi sono molto stretti. Ma quello che mi ha colpito dell'intervento del Presidente del Consiglio è stato quel tentativo di cambiamento culturale, cioè attenzione che non c'è soltanto l'economia, non ci sono solo le dietrologie, i valori spesso sono davanti a tutto e questo è un momento in cui i valori prevalgono e dunque l'Italia, che è un paese che sta cercando di crescere, che è in difficoltà, è al fianco degli Stati Uniti, per esempio nella crisi ucraina, proprio perché c'è qualche cosa di più importante, c'è la difesa del nostro sistema. Ecco, questo a noi un po' sfugge, siamo molto dietrologici, è un messaggio secondo me molto nuovo, molto fresco, quello di Renzi, che sicuramente è stato recepito molto bene dalla delegazione americana e dal Presidente Obama stesso. Grazie a Mario Platero. Grazie a te, Simone. E poi ti risentiremo come sempre naturalmente anche nei giornali radio. Sentiamo in chiusura di trasmissione che cosa ha detto Renzi. Non abbiamo alibi. L'Italia non ha alibi. L'Italia non deve pensare che i propri problemi e le proprie opportunità possano arrivare da fuori, dall'Europa o dagli Stati Uniti. Noi dobbiamo cambiare noi stessi. Noi siamo un grande paese che può cambiare se stesso eliminando il peso di una burocrazia opprimente, riducendo i costi e i posti della politica, avendo il coraggio di semplificare il mercato del lavoro, dicendo agli investitori internazionali questo è un bellissimo luogo dove far crescere le idee e anche il business. Anche qua messaggio non troppo velato proprio agli americani, evidentemente. e anche sul modello americano, Renzi, ascoltiamolo. Gli Stati Uniti in questi anni hanno, sotto con la leadership del presidente Obama, scelto un percorso ambizioso nel ricostruire l'economia del proprio paese. Rebuilding America è stato un messaggio che noi abbiamo ricevuto. Noi abbiamo scelto di chiamare Jobs Act, con lo stesso acronimo che è stato utilizzato negli Stati Uniti, un percorso per restituire spazio e credibilità per i giovani che oggi sono disoccupati, dare un'opportunità, dare un'occasione agli imprenditori. Quindi certo, gli Stati Uniti sono, con tutte le differenze, per molti aspetti un modello. Quello però che per me è fondamentale è che l'Italia faccia il proprio compito, che è quello di dare finalmente corpo alle riforme strutturali che stiamo aspettando da 20 anni. Chiudiamo così i ringraziamenti: Barbara Bianchi, Mauro Del Corno, Alessandro Iacopini in redazione, in regia Fabio Cantadori e Valeria Bernardi, Davide Ciocia anche, che sta facendo gesti dietro il vetro. Ci fermiamo qua, noi ci risentiamo domani con Effetto Giorno alle 17, dopo il giornale radio torna invece Sebastiano Barisoni. Radio 24, la passione si sente.